Rassegna Stampa Europa. Cari amici, un saluto, un buongiorno, un saluto da Gigi Donelli, questa mattina al microfono, da Pietro Lacorte in regia. Questo è dunque lo spazio per leggere insieme alcuni degli articoli pubblicati in Europa, sull'Europa, questa settimana. E allora, per cambiare, ed è vero, partiamo da casa nostra, dal Sole 24 Ore, che giovedì dedica un approfondimento all'Erasmus. Altro che estinzione, Erasmus raddoppia. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, infatti il programma per la mobilità degli studenti europei, a rischio cancellazione dopo aver esaurito i fondi nel 2012, ha ricevuto un'iniezione di energia il 7 novembre con l'annuncio di un accordo tra la Commissione Cultura del Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo per il finanziamento di un piano Erasmus Plus con il più. Ecco, un programma che, come sapete, è probabilmente quello in assoluto più popolare, quello più utilizzato dai giovani, dai nostri figli, insomma, da ormai almeno una generazione di studenti italiani ed europei nello spazio europeo. Secondo i termini dell'accordo, scrive Il Sole, per il periodo 2014-2020 saranno messi a disposizione 14 miliardi, il 40% in più rispetto all'ultimo budget settennale. L'aumento dovrebbe far raddoppiare il numero di studenti coinvolti, portando il totale intorno ai 5 milioni. E un'altra notizia molto importante, di fatto è la notizia europea che ha aperto la settimana che ora andiamo a concludere, riguarda il Kosovo e le elezioni. Prendiamo lo spunto dal quotidiano Politica Kohaditore, e ci racconta che gli incidenti a Kosova Mitrovica hanno impedito il voto, così titola il quotidiano serbo Politica, utilizzando la denominazione in vigore in Serbia per indicare l'ex provincia, quella che noi chiamiamo Kosovo, che è Kosovo e Metochia. In realtà il voto è avvenuto e possiamo senz'altro sottolineare che per la prima volta l'indicazione di Belgrado alla comunità serba del Kosovo è stata quella di andare a votare. Allora, considerate come un test per l'applicazione degli accordi conclusi sotto l'egida europea tra Belgrado e Pristina, le elezioni municipali sono state segnate dalle violenze nel nord, maggioranza serba, dove i nazionalisti hanno attaccato le persone che, seguendo il consiglio di Belgrado, avevano deciso di andare alle urne. Al nord, dove molti hanno deciso di restare a casa, l'affluenza ha superato a malapena il 12% contro il 60% nelle enclavi serbe a sud dell'Ibare, il fiume che separa le due comunità. E ancora su questo tema si impegna il quotidiano francese Libération. Siamo a metà settimana e metà del guado è il titolo che il quotidiano appunto parigino associa al tema Serbia. Dunque, Serbia a metà del grado, a metà del guado, non del grado, quello è Belgrado, dunque a metà del guado, scusate il gioco di parole. All'inizio del 2014 Belgrado comincerà dunque a trattare l'ingresso nell'Unione Europea, un obiettivo a lungo inseguito ma ancora distante e non condiviso da una parte della società. Nell'articolo a firma di Hélène Despich-Popovic si racconta di un percorso lungo e complicato perché, secondo le nuove regole, ogni nuovo allargamento dell'Unione può essere sottoposto a referendum nei paesi già membri dell'UE, un elemento che rischia di non essere una semplice formalità per un paese con un'immagine negativa come quella della Serbia, che 15 anni dopo la fine delle guerre di dissoluzione della ex Jugoslavia rimane associata ai crimini compiuti in Bosnia e in Kosovo e all'arroganza del regime di Slobodan Milosevic. Gli eredi di Slobo sanno bene che devono voltare pagina e direi che è quello che sta facendo il primo ministro Dacic, 47 anni, che peraltro è stato portavoce di Milosevic, ma è anche stato lui l'uomo che ha fatto il gesto di recarsi a Sarajevo, è stato il primo serbo che ha stretto la mano dell'ex combattente kosovaro Hashim Thaci, premier di un Kosovo che la Serbia non riconosce, ma con il quale ora accetta di parlare proprio per spianare, o meglio anche per spianare, la strada verso l'Unione europea. Oggi la Serbia, e qui concludiamo l'articolo di De Spitch Popovic, vuole dimostrare che ha qualcosa da offrire all'Europa, e questo qualcosa è anche una manodopera non a buon mercato come quella bulgara o romena, ma istruita in università relativamente ben quotate sulla lista di Shanghai, la cosiddetta lista delle università internazionali. Del resto non è un caso se Microsoft ha aperto nella capitale serba un centro di ricerca che dà lavoro a 150 giovani ricercatori, tutti diplomati con ottimi voti in matematica, ingegneria e informatica. E questo era dunque un quotidiano francese, e da Parigi, diciamo, ci muoviamo su Praga. Il quotidiano Ospodarskaje Noviny, quindi notizie della giornata, letteralmente notizie della giornata, che fa una riflessione sul comportamento che definisce ipocrita dell'Unione Europea. Qual è la questione? L'Unione Europea si schiera contro il fumo, ma sostiene il mercato della produzione del tabacco con 5 miliardi. Allora, il quotidiano Ospodarskaje Noviny racconta proprio giovedì, sottolinea il fatto che le politiche agricole dell'Unione abbiano sostenuto sistematicamente la produzione delle foglie di tabacco, soprattutto nel sud-sud-est dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, peraltro, con quasi 5 miliardi di euro. Una polemica che viene raccontata. Il quotidiano ricorda comunque, alla fine dell'articolo, che i sussidi sono stati progressivamente ridotti, che in questa fase, insomma, definisce molto bassi. E ora, da una parte all'altra, letteralmente, del continente, in Finlandia, Helsingin Sanomat, anche in questo caso un quotidiano, peraltro presente anche online, si occupa di Martin Schulz, che ha ufficialmente dichiarato la sua intenzione di competere per la posizione di presidente della Commissione Europea. Come sapete, Martin Schulz, attuale presidente del Parlamento, è socialista europeo, dunque candidato dello schieramento socialista. Dicevo, come sapete, questa è la prima volta in cui nella storia dell'Unione in cui il presidente della Commissione Europea di fatto si candida prima del voto, cioè prima del voto parlamentare del prossimo 25-26 maggio, dal quale poi dovrà uscire appunto il nome del prossimo presidente della Commissione. Non esiste peraltro nessun obbligo, nessuna relazione obbligatoria tra quel voto e la scelta del presidente della Commissione, ma insomma esiste più che altro un movimento, un'intenzione che sta attraversando l'Europa e che ha portato in queste settimane appunto a affermare una serie di candidature. E adesso un altro tema, questo davvero delicato potenzialmente, ce lo ricorda il lituano Lietuvos Dienos, un quotidiano appunto lituano. Il titolo è: l'Europa potrebbe aiutare l'Ucraina se le pressioni russe fossero troppo forti su di lei. Che succede tra Russia e Ucraina? Beh, forse ricorderete le periodiche crisi del gas, di solito nel mese di dicembre, appunto tra Kiev e Mosca. Ma quello che sta accadendo oggi in realtà è che il prossimo 28-29 novembre a Vilnius dovrebbe essere firmato l'accordo di associazione, il Free Trade Agreement, quindi commerciale e di libero scambio tra l'Ucraina e l'Unione Europea. Mosca ha più volte espresso contrarietà, Kiev ha tenuto la linea, insomma, per diciamo affermare il punto di vista di Mosca a Kiev, la Russia ha poi varato una serie di misure essenzialmente economiche. Il gas è sempre stato uno strumento, una leva nella battaglia appunto dei poteri tra filo russi e cosiddetti nazionalisti filo ucraini, in un paese che è l'Ucraina, quindi insomma anche un'espressione un po' paradossale, che ha seguito la separazione, insomma il crollo dell'Unione Sovietica ormai più di 20 anni fa. Staremo a vedere, vi ricordo questa data, sì, davvero importante, insomma la firma di Kiev potrebbe essere un significativo momento per il cambiamento e l'ampliamento dell'Unione Europea. Staremo a vedere e naturalmente ve lo racconteremo. Per ora è tutto invece per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Un saluto da Gigi Donnelli e vi lascio naturalmente agli altri programmi di Radio 24. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.